많이 왔지 오네. 라디오 아치오네 온. 라디오 아치오네. 컨트롤인포마치오네 레쿠레 프로파치오니 무지카. 라디오 아치오네. 라디오 아치오네 온도 온. Radiazione 2 marzo, lunedì 2 marzo, oggi come ogni lunedì diretta d'azione con controinformazione, ma soprattutto lettura, lo ricordo, stiamo leggendo Nessuno ci salva di Sergio Spiasecki e ovviamente la musica per intervallare tra il brano di controinformazione e la lettura di Sergio Spiasecki. Ricordiamo gli indirizzi utili per radiazione, radiazione@odissici.org per chi vuole mandare scritti, comunicati, mail oppure consigli o dubbi, come è capitato già di leggere la mail della compagna che ci ha scritto la settimana scorsa. Dubbi su radiazione, se avete qualcosa anche critiche costruttive, critiche costruttive vanno bene, anche vaffanculo, noi accettiamo di tutto, non ci offendiamo. Quindi radiazione@odissici.org, oppure anche per mandare dei consigli sui libri da leggere su radiazione il lunedì, che ricordo sempre che non sono testi anarchici ma testi di narrativa, romanzi con tematiche comunque bene o male affini con quelle trattate sul sito di radiazione. sito di radiazione, che è radiazione.org, dove potete leggere quotidianamente la controinformazione aggiornata, dove potete riascoltare le dirette d'azione, le vecchie dirette d'azione attraverso la pagina dei podcast, o dove potete anche scaricare un bel po' di materiale dalla pagina download, come libri, opuscoli, ma anche musica, adesivi, volantini, tutto quello che i compagni ci mandano per renderlo scaricabile gratuitamente. Poi ricordo sempre che sta a chi lo scarica e lo diffonde di ricordarsi che esistono le casse di solidarietà anarchiche, casse che si preoccupano di raccogliere un po' di denaro, visto che esiste, si deve raccogliere, per mandarlo ai compagni in carcere. Ricordo che Radiazione è anche in lingua croata, c'è il sito in lingua croata a cui potete accedere attraverso il banner che trovate inside the bar, e il tutto è ospitato dal server del compagno che porta avanti un altro progetto con cui ci sentiamo molto affini, che è The Anarchist Library, che salutiamo e ringraziamo sempre. Io affini perché loro rendono dei testi, opuscoli e anche libri scaricabili gratuitamente. Consiglio sempre di andarci a dare un occhio, trovate il link nella pagina dei link di Radiazione. Questo era per quanto riguarda tutti gli indirizzi utili, giusto per intro adesso. Ora ci ascoltiamo un brano, i Wire, il brano dei Wire da titolo Too Late, e poi dopo si torna qui e Marcello vi farà un piccolo riassunto, visto perché oggi c'è stata una giornata, un lunedì un po' classico ma un pochino più tosto, non si è avuto il tempo di mandare l'ultima lettura di Sergio Spiasecki della settimana scorsa, quindi Marcello vi farà prima un'introduzione, un riepilogo brevissimo della puntata precedente, e poi si partirà con la nuova lettura. Wire Too Late, e dopo Sergio Spiasecki. riprendiamo allora sempre lunedì 2 marzo, un lunedì bello grigio e pesante come si addice alla giornata. Le puntate precedenti, anzi la puntata precedente, la volta scorsa abbiamo finito di leggere di come Yannes si sia liberato e abbia umiliato, grazie comunque al sodalizio con i suoi compagni di ventura dello zio che lo ha abbandonato al momento del bisogno, e poi siamo passati a vedere la Pavka, questa donna insomma abbastanza contraddittoria, abbastanza da prendere con le pinze, come poi adesso si tratti, sia diventata del secondo risultato, del secondo personaggio da un po' decostruire, utilizzando un termine molto raffinato, fin troppo raffinato. Quel giorno Jan tardava a rientrare per la cena e Nastka non si metteva mai a tavola senza di lui. Quando fu tutto pronto ed ebbe anche apparecchiata la tavola, andò a sedersi sul letto del suo giovane padrone nella stanza di lui, e là, guardando fuori dalla finestra, si dispose ad attenderlo. E benché Jan le avesse detto mille volte di mangiare anche senza di lui quando era pronto, dato che gli capitava spesso di arrivare a casa molto tardi e a volte di passare fuori perfino l'intera notte, ma la ragazza, docile e obbediente in tutto il resto, su questo punto era inflessibile, se non a parole, perlomeno a fatti. E ciò irritava oltremodo Jan, che però finì per cedere, convinto che non l'avrebbe mai spuntata. La ragazza gli era devota come un cane. Cercava di indovinare e di prevenire ogni suo desiderio, teneva la casa linda come uno specchio, gli faceva sempre trovare la biancheria lavata e stirata a perfezione. Nastka stessa era sempre linda e fresca come un fiore, ma ciò non faceva che rendere più dura la lotta che Jan doveva combattere contro se stesso per impedirsi di abbracciarla e di entrare con lei in rapporti che voleva evitare. Quel giovane corpo florido e robusto che gli passava accanto gli faceva venire le vertigini, e a volte, soprattutto di notte, avrebbe dato chissà che cosa per trovarsi tra le braccia della fanciulla. A una scoprì tutte le sue doti fisiche: i denti piccoli, bianchissimi, la bocca tumida e colorita, il candore della pelle. Ma Jan considerava poco dignitoso da parte sua approfittare della ragazza, soprattutto da quando si era accorto che Nastka era innamorata di lui. Bastava che la guardasse negli occhi perché diventasse rossa come un papavero. Sì, essa si sarebbe abbandonata a lui generosamente, senza falsi pudori, e non l'avrebbe mai tenuto legato a sé, né gli avrebbe fatto delle scenate se poi non le fosse sempre stato attaccato alla gonna. Sarebbe stata l'ideale delle amanti, arrendevole, docile, senza pretese. Ma Jan voleva essere in pace con se stesso, e perciò preferiva andare ogni tanto da Mila o da qualche prostituta di sua conoscenza che lo considerava un amico ed era assolutamente sicura dal lato igienico. Suo malgrado Nastka divenne quindi per lui un frutto proibito al quale gli era tanto più difficile rinunciare, in quanto gli era così vicino, pronto a donarsi appena egli avesse stesa la mano. Dapprima la ragazza credette che Jan non si interessasse affatto a lei come donna. Era così abituata all'insolente aggressività degli uomini, dalla quale del resto era sempre riuscita a difendersi, a volte ricorrendo perfino alla forza delle sue giovani braccia, che la delicatezza con cui la trattava Jan le sembrava indifferenza. Ma poi s'accorse che il giovane la guardava con occhi avidi. Un po' alla volta comprese che aveva deciso di rinunziare a lei, piuttosto di metterla in una situazione imbarazzante per lui, che era il suo benefattore, o forse temeva di mettersi nei pasticci, pensando che lei presumibilmente era ancora vergine, come di fatti lo era. A volte di notte sentiva che Jan si rigirava nel letto, si alzava, andava in cucina a bere, accendeva una sigaretta dietro l'altra, e non aveva dubbi circa le cause di quell'insonnia. Una notte aveva quasi deciso di andare lei stessa da lui, ma poi le era mancato il coraggio. Una volta lo vide in strada a braccetto con Mila. Parlavano con animazione, ridevano e sembravano felici. «Deve essere la sua amante», si disse Nastka. Strano, ma non provò alcuna gelosia. doveva pur persuadersi una buona volta che lei, Nashtka, non gli piaceva come donna. Ciò che le era sembrato di leggere nei suoi sguardi era stata una sua illusione. E se però non fosse così, pensò, sarebbe un peccato che andasse a cercarsene un'altra, mentre ci sono io in casa sua che gli darei tutto, senza mai chiedergli nulla. Ma una notte, che Jana sembrava più irrequieto del solito, Nashtka sgusciò dal suo letto, si tolse la camicia e a piedi nudi andò nella camera di Jana. Esitò un attimo ai piedi del letto, trattenendo il respiro prima di infilarsi sotto le coperte. Il cuore le batteva forte. Fece ancora un passo in avanti. Jana, che sembrava assopito, fece un movimento improvviso. Dopo un istante la stanza si illuminò della luce fioca di un fiammifero. Quando si spense il fascio di luce della lampadina elettrica investì il corpo nudo di Nashtka, la fanciulla si rannicchiò su se stessa, cercando di nascondersi basso mentre il seno. «Sei tu?» chiese Jan quasi spaventato. «Scusate, cercavo i fiammiferi!» Jan le porse in fretta la scatola e si girò contro il muro, mortificata. Nashtka allora corse via e si buttò sul suo letto. Stava per scoppiare in un pianto, ma si frenò mordendosi il labbro, si alzò, accese la lampada e si mise a far qualcosa di insignificante per non pensare a ciò che era accaduto. Jan, affascinato dalla visione del corpo ignudo di Nashtka, che in un primo momento aveva creduto ad un'allucinazione, non riuscì più a chiudere occhio. Non aveva capito con quali intenzioni la ragazza era venuta da lui, scioccamente. Credeva si era bevuto la storia dei fiammiferi, dicendosi che per pura ingenuità si era esposta al rischio di essere veduta da lui, non mettendosi prima qualche cosa indosso. Era di una semplicità così sconcertante in tante cose, e poi aveva una fiducia così illimitata in lui. Dopo un po' Nashtka si sentì così stanca che si buttò di nuovo sul letto, ma aveva una vaga speranza che Jan, attirato dalla luce, venisse da lei, attese. Non sapeva neppure lei quanto tempo, perché pian piano, senza accorgersi, ripiombò nel sonno. questi erano Motormark con il brano Your Name, dopo la prima lettura per oggi di Nessuno ci salva di Sergio Spiaseschi. Ora passiamo alla controinformazione con due notizie. Una è breve ed è appena arrivata, non è una buona notizia. Leggeremo tante buone notizie oggi, ma questa non è buona, perché la compagna fuggitiva Angeliki Spiropoulou, ricercata per la partecipazione al tentativo di fuga delle CCF, è stata arrestata questa mattina assieme alla madre di Christos e Gerasimos Tsakalos, nella cui casa Angeliki è stata arrestata. Altri due uomini sono stati arrestati nei giorni scorsi e ieri una donna, considerata l'amica di Angeliki, è membro delle CCF. I cani dello Stato hanno arrestato anche la compagna di Gerasimos. Tutti gli arrestati sono accusati di diversi crimini legati alla fuga di Angeliki e al tentativo di fuga da Korydallos e alla lotta insurrezionale in corso. In solidarietà rivoluzionaria internazionale agli arrestati e detenuti, fuoco e violenza allo Stato. Questo era il comunicato per quanto riguarda l'arresto della compagna, di cui già si era parlato ampiamente nei testi passati, anche quelli delle CCF riguardante il tentativo di fuga. Invece ora, sempre in Grecia, oggi sarà una diretta tutta improntata sulla Grecia, perché le notizie arrivano solo da là. Ma va. Quasi sempre, per la gioia dei servizi croati, segreti croati, che vogliono una cellula italo-croata greca. Noi leggiamo solo notizie greche. Speriamo di non dare adito a puttanate varie. Sì, infatti. Allora, la prossima è una lettera aperta del compagno Spiros Mandilas riguardante il processo dei fatti del 2012 a Salonicco. Oggi, giovedì 26 febbraio, il processo relativo ai conflitti di Movimento Interno del 2012 a Salonicco è proseguito dopo una pausa. Da parte mia è fin troppo chiaro, già dal primo momento, il fatto che il processo non può avere luogo in questo periodo, perché il mio avvocato Ragusis ha qualche impedimento ed io sto già affrontando il processo relativo al progetto Phoenix che si svolge ad Atene. Oggi il giudice ha deciso di avviare il processo anche senza la presenza di un avvocato. Va notato che in questo processo sono accusato di reati riguardando esplosioni, possesso e uso di esplosivi, eccetera eccetera, altri reati. Così, comprensibilmente, un tale processo non può proseguire se il principale imputato ha obiezioni forti. Tuttavia, la corte, che consiste dei Ligas Panagiotakopoulou, Sterogudi e Zagofrou, all'udienza di oggi ha dichiarato che si potrebbe continuare senza la mia presenza e senza la presenza del mio avvocato. Ma ciò che è importante non è l'arbitrarietà legale del giudice, ma il fatto che, con poche eccezioni, tutto questo è stato considerato normale. Quindi, per essere chiari, chi presenzierà all'udienza di domani, 27 febbraio 2015, quindi è di qualche giorno fa la notizia, legittima con la sua presenza la Corte e quindi mi lascerà indifeso dai meccanismi dell'Agenzia Antiterrorismo e l'Agenzia di Polizia di Salonicco, che insieme al sistema giudiziario mandano gli anarchici nelle celle delle prigioni. Da quel momento in poi ognuno si prenderà le responsabilità delle proprie azioni e farà le sue scelte. Spiros Mandilas, Salonicco, 26 febbraio 2015. Questa era la seconda notizia per oggi, dopo quella dell'arresto di Angeliki ad Atene. Penso da Atene sia stato, non c'era specificato. Comunque, questa Grecia. Era Grecia, diciamo Grecia, e quindi andiamo su sicuro. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono Yenodyne con il brano Darken, e poi dopo si ritorna qui con una nuova lettura di Nessuno ci salva di Sergio Spiaseschi. E ora attendeva che egli tornasse. Sempre più stanca e assonnata, continuava a guardare fuori dalla finestra benché ormai non distinguesse quasi più nulla. A un certo punto si distese sul divano. Non aveva intenzione di dormire, ma quel giorno aveva lavorato più del solito e dopo pochi minuti si assopì. Jan rincasò che era notte inoltrata. Quando rientrava tardi non accendeva neppure la luce, ma si dirigeva subito in camera sua. Servendosi della pila e badando a non far rumore per non svegliare Nastka, entrando fu sorpresa di vederla sdraiata sul divano. Giaceva supina con le ginocchia piegate, dormendo coi pugni chiusi come una bambina. La posa era piuttosto provocante, benché la gonnella era scivolata su, scoprendo le cosce fino in fondo. Per un attimo gli balenò il pensiero che si fosse messa apposta in quella posizione, ma dovette subito convincersi che dormiva profondamente. Allora gli attraversò il cervello un altro pensiero. Potrei prenderla così all'improvviso, mi svestirei pian piano. Il desiderio era così violento che la fronte di Jan si imperlò di sudore. Dopo un attimo di lotta si precipitò nella cucina, dove si mise a chiamare con voce quasi isterica: Nastka! Oddio, che c'è? Vengo subito, rispose la fanciulla svegliata di soprassalto. Sono io! Che cosa fai lì nel buio? Mi ero addormentata, vi aspettavo alla finestra. Ma hai già mangiato? No. E allora accendi la lampada e porta la cena. Nastka si afferrò ad ubbidire, sbirciando Jan, e mormorò tutto ad un tratto: Perdonatemi se ho fatto qualche cosa che vi dispiace. Credeva che l'espressione rannuvolata di Jan e il suo silenzio significassero disappunto per la sua condotta, ma Jan si mise a ridere e, dandole un buffetto sulla guancia, disse: Non sono affatto in collera con te, Nastka. Ho dei pensieri. Sì che ce li ho, ma tu non c'entri. E allora posso fare qualcosa per voi? Ma sì, certo, potresti. Bisognerebbe però che non avessi paura di andare di notte fino al covo della zipa. Io? Paura? Fece la ragazza. Beh, c'è tanta gentaglia in giro. Qualcuno potrebbe molestarti. Ci si provi, sono forte io, e gli scapperebbe subito la voglia. Nastka alzò la testa e lanciò uno sguardo pieno di sfida al suo ipotetico aggressore. Se è una ragazza in gamba, non c'è che dire. Allora Jan spiegò a Nastka che si trattava. Da quando era uscito di prigione era stato fermato più volte dalla polizia e perquisito. Forse gli sbirri speravano di trovargli addosso dei grimaldelli e di avere così un pretesto per metterlo ancora dentro. Perciò non si fidava più a uscire con qualcosa di sospetto addosso. Ora, invece, Kazik Moretzky aveva bisogno urgente di certi arnesi che gli aveva prestati e gli aveva chiesto di portarli al covo di Zipa, dove li avrebbe presi in consegna il cittadino, che a sua volta doveva portarli subito in via Novokrajn, dove Kazik era ad attenderlo con i suoi soci. Nastka, per la furia di eseguire l'incarico affidatole, non voleva neppure mangiare un boccone, ma Jan la costrinse a sedere a tavola e a consumare la sua cena. Poi, una volta mangiato, le consegnò un pacco non troppo voluminoso, ma molto, molto pesante, perché conteneva 2 piedi di porco, un completo di grimaldelli, una rana e una cesoia per tagliare il filo spinato. Nastka se lo mise sotto il cappotto, stringendo più che poté la cintura perché non cascasse. «Fa attenzione! Se vedi un poliziotto, gira largo!» le raccomandò Jan sulla porta. «Il pacco va consegnato soltanto al cittadino!» e nelle sue proprie mani. Ho capito, disse Nastka e scomparve nel buio. Jan si sentiva molto stanco. Si preparò il letto in fretta e si coricò. Appena spenta la luce, cadde un sonno profondo. La porta della cucina era rimasta aperta ed egli, che non si era curato di richiuderla perché Nastka potesse entrare senza costringerlo ad alzarsi. Ma il suo sonno fu presto interrotto da una porta sbattuta con forza che lo fece sobbalzare sul letto. Avendo perduto la nozione del tempo, credette che fosse tornata Nastka, ma poi udì una risata e echeggiare dietro la sottile parete di legno. subito seguite dalla voce di Pavka e dalla voce di un uomo. Avrebbe voluto riaddormentarsi, ma i pensieri e la rumorosa conversazione che si svolgeva nella stanza accanto glielo impedivano. Senza volerlo, tese l'orecchio per cercare di capire di che stessero parlando, ma non riusciva a distinguere neanche una parola. E a un certo punto l'uomo si mise a cantare una volgare canzonetta con una voce chioccia e terribilmente stonata. Quando tacque, Jan percepì le parole di Pavka, che evidentemente era ubriaca. «Ma come canti bene, ma bravo!» «Estes che shows!» Ihr Leben, die Blinden, die glauben, was sie sehen, und die Tauben, die glauben, was sie hören. Festgebunden auf einem Küchenhocker sitzt ein Irrer, der glaubt alles, was er anfassen kann. Seine Hände liegen im Schoß. Zweites Geschoss. Rolle für Rolle rauf, also tapeziert in den Gängen stehen Mieter herum. Betrachten die Wände aufmerksam, suchen da auf Bahn um Bahn nach Druck und Rechtschreibfehlern. Könnten nicht mal ihren Namen ziffern. Auf ins nächste Geschoss. Welches Wunder nie fertiggestellt, nur über die Treppe erreicht werden kann. Hier lagern Irrtümer, die gehören der Firma, damit kappen sie die Böden an die Lappen. Viertes Geschoss. Hier legt der Architekt, der geht auf in seinem Plan, dieses Gebäude schmeckt voller Ideen. Vom Fundament bis Fundament und vom Fundament bis zum Fundament. Im Erdgeschoss befinden sich mit Türen, die führen ins Freie oder besser gesagt in den Grundstein. Darin warten wer will und 12 Gruppe Beton und Grundstein Lego. Grundstein Lego, Lüge, Lüge, Lüge. In Kopfhöhe braun, in Farm, katholisch, violett, zur besseren Orientierung. Dachgeschoss, es hat einen Schall, im Dachchen sitzt ein alter Mann, auf dem Boden tote Engel verstreut. Zwischen den Klingen hält er ein Gewehr, zielt auf seinen Mund. Und in den Schild. Hier ist dunkel, feucht und angenehm. Dies ist ein Keller. Hier lebe ich. Dies hier ist ein Schoß. E questa la dice Marcello perché conosce lui il tedesco. Hier lebe ich, mein Keller, come se fosse una cameretta dall'aria viziata. Con l'aria viziata, Einstutz come lo è, aus der Lüge. D'altronde è la cameretta con l'aria viziata. Stiamo nella nebbia fitta, dentro e fuori. La nebbia napoletana, smog, ma è smog dato dalle sigarette, dai fumi dell'alcol. Vabbè, va bene, passiamo alla controinformazione dopo la seconda lettura per oggi di Nessuno ci salva di Sergio Spiasecki. Si resta in Grecia come per tutto il resto della diretta d'azione, perché tutte le notizie arrivano dalla Grecia. E quindi leggiamo quelle. Allora, Eraglion Grecia, attacco incendiario al centro outlet. Ho sbagliato sul sito, ho scritto outlet, ma è un errore di battitura. Outlet Hondos, 17 febbraio 2015. Ne leggiamo il testo rivendicativo. Martedì scorso, 17 febbraio, abbiamo attaccato il centro outlet Hondos nel centro di Eraglion utilizzando un ordigno incendiario improvvisato. Centro Hondos, un servizio di abbellimento nel regno dello spettacolo e dell'illusione, nel regno dove la realtà è basata sulla delusione, dove il contenuto è stato stabilito su delle basi virtuali e dove l'essere umano si riconosce nei prodotti di consumo, la realizzazione. Là dove tutto e tutti sono numeri e la mercificazione è stata estesa a tutto l'esistente, raggiungendo il sequestro della coscienza stessa. Là dove il lavoro ti rende libero e la routine quotidiana castra il tuo pensiero. Là dove tutti sono contemporaneamente prostituta e magnaccia delle autorità. Di fronte a questa macchina di schiavitù noi abbiamo scelto la negazione. La negazione che ci porterà verso il conflitto totale con questo mondo e verso l'esperienza della libertà autentica. Non esiste di per certo una verità unica e non negoziabile, è soggettiva, e sicuramente non esiste neanche un manuale per guidarci verso la sua esperienza. Altrettanto certamente noi, cresciuti dentro questa macchina sociale, siamo portatori esponenti, certe volte più, certe volte meno, della moralità dominante del modo di pensare e di comportarsi. Esattamente qui inizia la nostra lotta, il conflitto con noi stessi per sradicare da noi stessi ogni atteggiamento e mentalità autoritaria, ogni idea prefabbricata, ogni traccia di moralità dominante. Questo conflitto costante con le nostre contraddizioni, i nostri compromessi e i limiti di questo mondo, finché noi stessi non diventeremo il cambiamento che vogliamo vivere. Per noi la trasformazione di questa negazione in attacco è una parte indispensabile di questo conflitto interno e la sua continuazione. In attacchi che creano locali tempi e spazi di libertà, provocando crepe nel nemico sistema Stato, apparentemente invincibile, dando forza a coloro che li realizzano, ai compagni incarcerati e che sono caduti, solo per attaccare nuovamente, e a coloro che hanno deciso di agire. Siamo egoisti e abbiamo fretta. Respingiamo tutto ciò che riguarda la vittimizzazione, i rapporti di forza, l'attesa, la morte. Non aspettiamo il movimento e che maturino le condizioni favorevoli per la nostra lotta e non ci basiamo sul riconoscimento da parte della società. Inoltre è proprio la società che riconosce e premia solamente coloro che non la criticano e che non realizzano azioni che potrebbero causare la sua dissoluzione. E qua c'è una nota che non possiamo evitare sul tema delle carceri. La lotta per la distruzione delle carceri è impossibile che proceda separatamente dalla lotta contro la società che la costruisce, che la custodisce, non la costruisce. Abbiamo una lunga, dura e bellissima strada davanti a noi e siamo all'inizio. La sfida per noi è armarci con il sapere, l'esperienza, con nuove pratiche e metodologie di attacco. Ma ancora più importante, armare le nostre coscienze e temprare la nostra fermezza. Per il viaggio verso l'ignoto, la vita, la libertà, l'anarchia, forza compagni dietro le sbarre, forza compagni che pianificano gli attacchi, forza ad ognuno che sogna ad occhi ben aperti. Questa era il testo rivendicativo privo di firma, così sarà contento chi è per l'anonimato. Riguardando l'azione di Eraclion in Grecia del 17 febbraio, in cui affronta anche delle cose della lotta, dobbiamo partire insieme, dobbiamo tornare insieme, vecchia frase italiana in voga negli ultimi anni, specialmente nelle valli dove dovrebbe passare un certo trenino. Vabbè, fermiamoci qua perché altrimenti si va troppo avanti con le provocazioni, stiamo a perdere un po' di gente per strada. Quindi questo era il primo testo carino della giornata, perché prima abbiamo letto l'arresto della compagna Angelichi in Grecia per il tentativo di fuga delle CCF. Ora ci ascoltiamo un brano di Anin Elias, sarebbe la cantante degli Ethery Teenage Riot, con il brano You Will Never Get Me, non mi prenderai mai, e dopo nessuno ci sa. Frozen like the lake. You will never. scena che si svolgeva nel salotto di Pavka stuzzicò la curiosità di Jan. Si alzò dal letto e, avvicinatosi alla parete, scostò un vecchio tappeto che un giorno vi aveva appeso appunto per nascondere una fessura che si apriva tra le assi. Accostando un occhio, si poteva vedere quasi tutta la stanza di Pavka e vide la tavola imbandita, illuminata dalla lampada appesa al soffitto. Pavka sedeva sulle ginocchia di Samantha. Jan credette dapprima di riconoscere lo stesso uomo che un giorno aveva sorpreso nel letto di Baran, ma si convinse subito di aver sbagliato. Pavka era ubriaca fradicia. Diceva un mucchio di sciocchezze e si stringeva con tutto il corpo al suo compagno, che non sembrava troppo acceso di lei, a dir la verità, ma la palpava con evidente, indifferenza. A un certo punto, la ragazza spinse da un lato i bicchierini e, prendendone due più grandi, li riempì di cognac, facendoli traboccare sulla tovaglia. «Prendi», disse a Samantha. Un attimo, prima che vai avanti, specifica assolutamente, prima che si offenda qualcuno, non è un termine sessista. Non è un termine sessista. Ci riferiamo alla chiavica, il napoletano è la chiavica, quindi la chiavica internazionale. E ci riferiamo nel racconto ad un personaggio che è il comandante Semente delle truppe rivoluzionarie, fra mille virgolette, sovietica, quindi Samenta. Però lui si chiama Sementev per i, diciamo, come si dice, le persone precise. Basta, non mi va più giù. E allora me li bevo tutti e due io. Con un gesto deciso si rovesciò in gola uno dietro l'altro due bicchieri. Il secondo però le cadde di mano, frantumandosi a terra. Pavka si mise a ridere istericamente, stringendosi ancora di più al petto dell'uomo. Dimmi, caro, mi vuoi bene? Ma come, ma non hai detto che sono incantevole prima? Sì, ma allora dimmi che mi ami, insistette Pavka. E va bene, là. Ti amo, allora baciami. Samantha le diede un bacio tutt'altro che ardente e appassionato. Un altro. Oh, non essere noiosa con sti baci. Ma sei tu che sei sempre noioso. Bevi piuttosto. Samantha si riempì di malavoglia il bicchiere. Gli tremavano tanto le mani che una parte del cognac si rovesciò sul vestito di Pavka. Ella allora saltò giù dalle ginocchia di Samantha e si mise a scuotere la gonna. Scusami. Oh, no, non importa. Adesso però devo togliermi l'abito per farlo asciugare. Barcollando, Pavka si tolse il vestito e rimase in sottoveste. Era veramente affascinante. Jan non poté fare a meno di ammirarne la graziosa figurina. Dopo un attimo sedette ancora sulle ginocchia di Samantha, che pareva essersi un po' rianimato. Pavka ardeva addirittura. Incominciò a baciarlo appassionatamente, poi fece scivolare le spalline della sottoveste e mise a nudo i seni. La pelle era di un delizioso rosa tenero. Un momento dopo, la ragazza era completamente nuda, ma non provava vergogna, piuttosto provava irritazione contro quell'uomo che faceva così poco caso ai suoi vezzi, cercava in tutti i modi di eccitarlo senza alcun ritegno, con sguaiate profferte, ma se l'impudico atteggiamento di Pavka non provocava in Samantha una reazione assai debole, accendeva sempre di più il desiderio di Jan, che osservava avidamente ogni sua mossa, ma di nascosto. La vista delle forme perfette di quel corpo femminile lo inebriava, portando a un vero orgasmo la sua eccitazione erotica. D'improvviso udì il passo di Nashtka che rientrava. Si sedette sul letto e si mise a cercare i fiammiferi. Sentiva la ragazza che si puliva le scarpe sullo zermino. «Sei tu, Nashtka?» chiese con voce rauca. «Sì, tutto bene, ma ho preso tant'acqua che mi sono bagnata fino al midollo. È un vero diluvio, e pensare che il cielo era pieno di stelle quando sono uscita». Jan era così turbato che non udì neppure le sue parole. Vedendola entrare un attimo dopo tutta bagnata, saltò giù dal letto e le andò incontro. Allora togliti subito gli abiti, prenderai il raffreddore altrimenti. Sentiva il cuore martellargli nel petto mentre l'aiutava a togliersi la pelliccia, poi con mani febbrili incominciò a slacciarle anche la camicetta. Nastka cercò di trattenere la sua mano, ma egli con uno strappo fece saltare i bottoni che si sparpagliarono a terra, poi, senza guardarla, muto e ansante, si mise a sbottonare gli automatici della gonna. Nastka allora comprese. Il suo volto si illuminò di gioia mentre le sue dita si incontravano con quelle tremanti di Jan. «Lascia fare a me, tesoro, farò più presto», ma ormai Jan non capiva più nulla. La spogliò fino all'ultimo indumento, poi la prese tra le braccia e la portò sul letto. Nastka era così sconvolta che non sapeva dimostrargli il proprio entusiasmo. Si sentiva goffa e anche allarmata, sì, allarmata dalla propria inesperienza. Jan credeva invece che volesse resistergli e cercava a tutti i costi di prenderla, procurandole un acuto dolore che ella cercava di celare, sì, stringendo i denti. Finalmente le si accasciò sopra ansando. Dopo un po' Nastka prese la sua mano, le baciò e le disse con dolcezza: «Sei stanco, amore?» Jan levò il capo e la guardò intensamente negli occhi, poi si chinò e la baciò teneramente sulla bocca e dopo un attimo di esitazione le chiese: «Perché non mi hai detto che era la prima volta?» «Non volevo che ti preoccupassi, ma soprattutto perché volevo te, e ora lo sai, del resto se non fosse così non saresti riuscito come non ci sono riusciti tanti altri uomini». Dall'altra parte della parete giungevano dei cupi rantolii. Era Samantha, che stava vomitando anche l'anima. Il primo sbocco, viscido e puzzolente di alcol, inondò il seno e le gambe di Pavka, che era seduta, adagiata, sulle sue ginocchia. E questi erano Mentallo e The Fixer, un brano Lunatic. Ora si ritorna alla controinformazione. L'ho detto già all'inizio che la controinformazione riguarderà unicamente la Grecia, perché cioè, le ultime notizie che abbiamo avuto e abbiamo tradotto arrivavano tutte da quel territorio. Quindi si va a Salonicco, dove sono state attaccate due banche il 12 febbraio 2015. Ne leggiamo il testo rivendicativo. Il 12 e 13 febbraio si sono svolte le consultazioni dei paesi membri dell'UE per affrontare rispettivamente il terrorismo e la politica economica. Per noi questi due argomenti compongono e aggiungono significato alla moderna visione europea, che è quella dell'emorragia economica di quelli sottostanti, l'oppressione e la gestione del nemico interno ed esterno, il quale minaccia la stabilità e la pace sociale. In specifico, il 12 febbraio di quest'anno, 2015, si è svolto l'incontro tra i ministri dell'UE riguardo ai recenti incidenti in Francia. C'è stato un incontro precedente il 15 gennaio 2015 tra i ministri degli interni e della difesa europei e con la partecipazione anche del ministro degli interni americano. L'obiettivo dominante era la creazione di una politica antiterroristica comune e la ricerca di nuove tecniche di osservazione e di controllo, vale a dire un ulteriore ampliamento della difesa e della fortificazione del dominio, che noi percepiamo come un obiettivo primario di quelli sopra in un periodo di disordine sociale. Abbiamo già sperimentato i risultati di simili incontri con l'aggiornamento della legge terrore, i campi di concentramento, il Frontex, che sarebbe la polizia europea di frontiere esterne, questa è una nota del traduttore in inglese, la recinzione di Evros a 12 km e mezzo di filo spinato lungo la frontiera greco-turca, le carceri di massima sicurezza e non solo. Da un canto, il 13 febbraio 2015, l'incontro dell'Eurogruppo si è svolto per formare la politica economica con lo scopo di portare la crescita alla Grecia e all'Europa in generale. Per noi questa crescita è solo un tentativo di salvare e perpetuare lo stesso sistema capitalista a cui noi attribuiamo povertà, oppressione e la miseria delle nostre vite. Indipendentemente da diversi modelli di gestione economica, il ruolo del sistema bancario ed economico nel suo complesso rimane uguale. L'accumulazione del profitto nelle mani dei dominatori e l'emorragia economica degli oppressi. Oggi stiamo vivendo una presunta radicale gestione economica della crisi che tuttavia non fuoriesce dalle cornici del totalitarismo e neoliberismo dell'UE. Non abolisce e non può abolire le condizioni dello sfruttamento stesso. Dall'altro canto, la gestione sociopolitica di Syriza, in contrapposizione con quella di ND Neodemocratia, precedente partito al governo, che aveva tentato di sterminare i movimenti con la strategia di intensità, entra in una nuova strategia di repressione, la cui arma principale è l'assimilazione di richiesta delle lotte sociali che si sono svolte. Per noi il nemico, indipendentemente dalla maschera che indossa, sinistra o destra, era ed è lo Stato e il capitale. Contrari alla logica della delega, noi non ci attendiamo che qualsiasi governo dia una soluzione ai problemi che stiamo vivendo e proponiamo la lotta non mediata, con ogni mezzo, fino alla liberazione da ogni forma di autorità. Perciò nei giorni quando i dominatori europei erano riuniti a formare il loro corso repressivo ed economico, abbiamo contribuito a questo dialogo attaccando il 12 febbraio 2015 due banche, Eurobank e Alfa Bank, nella via Ionos Dragoumi, nel centro di Salonicco, rompendo i vetri e distruggendo i bancomat. Nessuna ritirata, lotta fino alla distruzione dello Stato e del capitale. E questo era il testo di vendicazione del doppio attacco a Salonicco contro le banche. Ora ci ascoltiamo un altro brano che è dei Groups e Nitzereb, The Machinery of Joy, e poi dopo si ritorna qui con la lettura di Nessuno ci sa di Sergio Spiasecki. Oh, Suggestioni erotiche, adesso viene invece il bello, perché parliamo del terrore a Minsk. L'aria era immota e infuocata, il sole era come una caldaia che rovesciasse sulla terra piombo incandescente. Grossi uccellacci neri si libravano in un cielo senza colore, ma che cos'è, una 013. Jan giaceva in un fosso lungo il ciglio di una strada in un biancore accecante che si perdeva in lontananza. Accanto a lui erano accoccolati immobili altri 5 uomini. I loro abiti e perfino i loro volti erano bianchi di polvere, avevano le labbra aride e semiaperte per l'arsura. Jan teneva la mano destra appoggiata al calcio di una carabina di un vecchio modello. La canna era così riscaldata che, sì, bruciava le dita, e non capiva perché con questa canicola si fosse messo quel vestito di panno pesante e anche gli stivali. Cercò quindi di allentare il cinturone così stretto ai fianchi che gli impediva di respirare liberamente, però non vi riuscì. sapeva che era per qualcosa di importante che rimanevano in attesa in quella posizione, ma non riusciva più a ricordare di che cosa si trattasse, benché ciò lo rendesse inquieto e nervoso. Tuttavia rimaneva immobile al suo posto, senza far domande ai compagni che pur loro malgrado tacevano. A un certo punto, lontano dalla strada, apparve una nuvoletta di polvere che, avvicinandosi, ingrandiva sempre di più. Gli uomini afferrarono le carabine disponendosi a far fuoco. Intanto il polverone si accostava sempre di più e ora si udiva distintamente un cupo scalpitare di zoccoli. Tosto emersero quattro teste di cavalli con la criniera al vento che correvano di gran galoppo trainando una carrozza chiusa. Quando questa si trovò all'altezza dei masnadieri si udì un lungo fischio e Jan con i suoi compagni uscì dal fosso sullo stradone. Ma dal ciglio opposto di fronte a loro sbucarono cinque altri uomini armati, la cui presenza Jan non aveva neppure sospettato. Seguì un parapiglia indescrivibile. I cavalli si impennarono, sbandando, e gli uomini riuscirono a stento a impedire che la carrozza si ribaltasse, poi ordinarono ai viaggiatori di scendere. Erano un vecchio dalla lunga barba che indossava una specie di toga nera e una graziosa fanciulla vestita di bianco che teneva le mani giunte come se pregasse. I suoi occhi erano bellissimi ma pieni di terrore. Anche il cocchiere scese dalla cassetta. Tutto si era svolto in un attimo, senza grida né spari. Ora gli uomini diedero l'assalto alla carrozza. Due di essi salirono a cassetta, tre altri si arrampicarono dietro sul portabagagli. Il vecchio e il cocchiere furono abbandonati in mezzo alla strada. I cavalli, istigati dalla frusta, si lanciarono a galoppo sfrenato, facendo traballare la carrozza e sballottando i passeggeri a destra e a manca. Jan sedeva all'interno, accanto alla ragazza, tenendola strettamente per un braccio come se avesse paura che fuggisse. Dopo una fuga precipitosa attraverso un paesaggio abbagliante, la carrozza si inoltrò in una fitta boscaglia, abbandonando la strada frustata continuamente dai rami degli alberi. Finalmente si uscì in una radura in mezzo alla quale si trovava una casa bassa dai muri di pietra a secco. La carrozza si fermò e Jan, assieme a un compagno, aiutò a scendere la fanciulla. Gli altri erano occupati a scaricare un bauletto di ferro. Poi tutti entrarono nella casa, in un ampio locale a pian terreno, nel centro del quale si trovava un grande tavolo massiccio. La ragazza venne fatta sedere su una panca in un angolo. Faceva fresco lì dentro e Jan respirava finalmente a pieni polmoni l'aria vivificatrice del bosco che entrava dalle finestre spalancate. Tutti gli altri erano indaffarati intorno al baule e si sforzavano di aprirlo, ma senza riuscirvi. Allora Jan si fece largo tra loro, esaminò attentamente il baule e, dopo averne trovato il punto debole, si tolse dallo stivale un piede di porco. Pochi minuti dopo il coperchio era aperto, gli occhi dei banditi furono abbagliati dallo sfavillio dell'oro e delle pietre preziose che riempivano il cofano. Vi affondarono le mani con cupida voluttà e a manciate trasportavano tutto sulla tavola, sulla quale si ammucchiavano alla rinfusa monete d'oro, braccialetti, orecchini, anelli e collane, oltre ad una gran quantità di pietre sciolte di ogni colore. Alcune erano perfino grosse come noci. Subito incominciò la spartizione del bottino, che fu diviso in 11 mucchietti di valore pressappoco equivalente. Uno dei banditi, il più grande e grosso di tutti, bendò gli occhi alla ragazza con un fazzoletto e le diede in mano il proprio cappellaccio, in cui furono buttati 11 bigliettini numerati da 1 a 11. Altri bigliettini, pure numerati, furono disposti presso ogni mucchietto. Allora gli uomini si avvicinarono attorno alla ragazza, prendendo ciascuno un biglietto dal cappello. A Jan toccò il numero 7, Sieben, egli andò al tavolo e si cacciò in tasca la sua parte. Poi incominciò un altro sorteggio a chi dovesse toccare per primo la ragazza. Sul tavolo vennero deposte 11 arance quasi uguali di grandezza e di forma. L'omone di prima sfidò dal corpetto della ragazza una spilla d'oro e la ficcò in una delle arance, in modo che ne restasse fuori soltanto la testina. Anche le arance andarono a finire nel cappello e la fanciulla doveva ora distribuire agli uomini man mano che le sfilavano davanti. Quello a cui fosse toccata l'arancia con la spilla avrebbe potuto disporre liberamente di lei, senza il suo consenso ovviamente. Nel più assoluto silenzio si svolse l'operazione. Jan fu il quinto ad avvicinarsi, prese l'arancia, la rigirò tra le mani e vide la testina d'oro della spilla. Subito alzò il frutto e lo mostrò ai compagni. Ora, con lo stesso sistema, doveva essere sorteggiato il secondo, a cui sarebbe toccata la fanciulla, poi il terzo, il quarto e così via. E le cose andarono molto per le lunghe. Quando tutto fu finito, l'omone andò ad aprire la porta che conduceva nel locale attiguo dove si trovava un'alcova. Poi tolse la benda dagli occhi della fanciulla e spingendo Jan verso di lei. Jan la prese per la mano e la condusse nella stanza accanto. Mentre chiudeva la porta a catenaccio udì alle sue spalle un singhiozzo. Si voltò e vide la ragazza in ginocchio che con gli occhi e i gesti lo scongiurava di risparmiarla. Il suo bel volto era inondato di lacrime. Jan cercò a sua volta di spiegarle che non l'avrebbe toccata, che anzi l'avrebbe aiutata a fuggire dalle grinfie dei suoi compagni. La ragazza comprese, si alzò col viso raggiante e per mostrare la sua riconoscenza al suo salvatore gli buttò le braccia al collo coprendogli il volto di baci. Jan si schermì tutto confuso e con un gesto le indicò la finestra, saltò fuori per primo e poi aiutò la fanciulla. Subito si misero a correre, addentrandosi sempre più nel folto della boscaglia. Jan si voltò varie volte col cuore in tumulto, ma nessuno li inseguiva. Ciò nonostante sentiva l'imminenza del pericolo. Esortò la fanciulla ad affrettare il passo, tenendola per mano perché non cadesse. Inciampavano continuamente nelle radici contorte degli alberi. A un certo punto raggiunsero la riva di un torrente le cui acque spumeggiavano piene di gorghi. Ma non c'era tempo da perdere. Il pericolo li minacciava alle spalle. Jan prese la fanciulla tra le braccia e, lottando con le onde che minacciavano continuamente di travolgerlo, riuscì, dopo molti sforzi, a guadare il fiume. Issues commands which your body carries out to the memory centers throughout the brain. First move. The memory bank sends color information. He is asleep and the TV is on all night long. But he is asleep. He is asleep and the TV is on. He is asleep and the TV is on all night long. But he is asleep. He gets new specials. He gets new specials. He is asleep and the TV is on. He is asleep and the TV is on all night long. And he's asleep. Gets information from out of space. They use the TV set to come into this place, this place. Just right on his face. He gets we'll be right back. mind is working hard. He is asleep and his mind is working hard, so hard, so hard. Getting so smart. He is asleep and the TV is on. He is asleep and the TV is on all night long. E questa era Nina Hagen con il brano TV Snooze. Ora si passa alla, di nuovo alla controinformazione. Ancora a Salonicco, in Grecia, dove sono stati vandalizzati degli obiettivi religiosi. Ogni tanto qualcuno pensa anche all'anticlericalismo, tanto decantato, però ogni mai, cioè, diciamo che anzi, spesso veramente se ne dimentica. In Italia una volta facevano i meeting sull'anticlericalismo fatti dalla FAI. La vecchia? No, no. FAI. O la vecchia, o la nuova. Cambia no, poco. Comunque. Mente quando, durante una manifestazione di qualche anno fa. Però comunque una volta anche in Italia c'era una forte critica anche contro il clericalismo, che non è per forza anti-cattolicesimo, ma è contro tutte le religioni. Infatti, a differenza di Anonymous, ce ne passa per il cazzo di quale religione. Vabbè, Anonymous oramai si sono sputtanati, hanno detto esplicitamente che di Anonymous fanno parte sia gli antagonisti che gli sbirri. Hanno collaborato per bloccare i siti dell'ISIS, che a noi non ci sta simpatico, però non ci stanno nemmeno simpatiche chi gliel'ha bloccato. Allora leggiamo questo testo rivendicativo dei compagni in Grecia che hanno attaccato e vandalizzato questi obiettivi religiosi. La storia ha dimostrato che la religione è sempre stata uno strumento di dominio per promuovere la repressione attraverso la paura. Come uno dei simboli dominanti dell'autorità, la religione pone e continua a porre alcune figure superiori a cui assoggettarsi: Dio, preti e altro staff politico-religioso. Promuove e continua a promuovere l'idea che le cose cambiano attraverso la fede, le preghiere e la sottomissione, e non con l'azione intrapresa dagli oppressi, rendendoli quindi incapaci di gestire la propria vita, conducendoli nel migliore dei casi nella carità e nel peggiore nell'inerzia. La religione non è uno strumento autoritario indipendente, è stata creata dal bisogno di dominio di plasmare un'intera cultura, un codice di valori, un'etica che crea dei standard di comportamento e promuove il controllo sociale, e ha trovato il modo di integrarsi nel modo di vita moderna, diffondendosi dentro ogni aspetto della vita quotidiana: preghiere nelle scuole, battesimi, matrimoni, lezioni di religione a scuola, giuramento religioso, eccetera. È stata creata dal bisogno di dominio di distruggere e dividere gli oppressi e di promuovere l'unità tra i correligionari e la discordia tra i pagani. Ecco perché vediamo persone religiose definire la propria routine quotidiana basandosi sulle tradizioni religiose. Vediamo rivolte, conflitti e guerre di espansione che scoppiano per motivi religiosi. Il rapporto per l'ambiente istituzione religiosa chiesa con il mondo del potere si riflette anche sul campo economico. È stata la base per un'altra industria di profitto da costruire con accordi tra chiesa e Stato, nonché con i rappresentanti del dominio. Per esempio, Vatopedi, monastero sul monte di Athos, questa è una nota del traduttore in inglese. Oggi l'influenza della religione nel mondo occidentale è diminuita, ma rimane comunque un ricatto emotivo morale, un'industria di sfruttamento degli oppressi direttamente a livello emozionale e indirettamente a quello economico. Una disunione in più come l'origine e la nazione, il genere e la razza. Perciò in ogni frangente la Chiesa e la religione non sono e saranno un obiettivo, saranno un obiettivo in più, essendo parte dell'autorità. Per questo motivo, all'alba di giovedì 19 febbraio, abbiamo dissacrato 13 piccole chiese e vandalizzato le facciate di 4 chiese a Salonicco, con vernice e bombolette. Nel frattempo abbiamo attaccato un negozio che vende oggetti religiosi e l'entrata della chiesa metropolitana di Salonicco con vernici e distruggendo le telecamere che la adornavano. Né dei né padroni. Questo è il testo dei compagni che hanno attaccato questi obiettivi religiosi che noi ricordiamo a discapito anche del testo rivendicativo in cui dicono i compagni che è un momento in cui la religione non abbia così tanto significato. Io invece direi tutto l'opposto, perché praticamente con addirittura si è sempre criticato il vecchio Papa, oramai diventato santo, Wojtyla, la caduta del muro di Berlino, blandendo gli oppressi. Questo Papa con il linguaggio proletario, secondo me, è molto più pericoloso rispetto agli altri, perché comunque proprio attraverso il linguaggio proletario sta riavvicinando tutti quei fedeli che comunque un po' di fede l'avevano persa negli anni. Non solo, ma senza dimenticare per i vari motivi, sia per la ricchezza dello stato religioso, che comunque ricordiamo una volta c'era la guerra tra Stato e Chiesa. Ora c'era una competizione, senza mai dimenticare che l'attuale Papa ai tempi di Videla e della imboccava l'ostia a Jorge Videla, che buttava nei sotterranei dello stadio della Bombonera, i desaparecidos, mentre tutti festeggiavano la vittoria del mondiale di calcio. Quindi per me, secondo me, non è che si sia ammorbidita la linea della Chiesa, ma secondo me sta andando oltre, è scesa ai livelli del popolo, parla con termini molto proletari, perché basta vedere il Papa che dice all'inseguito degli attacchi a Charlie Hebdo, non solo basta vedere il Papa che offende la mamma, si offende mia mamma, ti tiro un cazzotto in faccia. Oppure a caso, ieri ha detto quante persone lavorano 11 ore al giorno per 600 euro, ma il Vaticano come le paga le persone che lavorano 11 giorni? Il Vaticano di fatto a Pompei, città del Vaticano, è quasi interamente del Vaticano come proprietà, sfratta le famiglie del popolo. Non le chiamiamo proletari, perché il proletario appartiene a qualcun altro. Questo giusto per aggiungere una piccola nota al testo dei compagni, che ben vengano altri attacchi come questo nei confronti della Chiesa, perché non si deve dimenticare che non c'è solo l'oppressione dello Stato, ma c'è specialmente l'oppressione della Chiesa, che è quella che comunque ti forma nella moralità. Ora ci ascoltiamo un brano di Mata Macete, Brand of the Beast. non è perché siamo satanici, però ce la scortiamo lo stesso, giusto per spezzare e ripartire con la lettura di Nessuno ci salva di Sergius Piasecki. Sulla sponda opposta c'era una scarpata erta e sassosa da superare, e quando raggiunsero la cima le loro fronti erano madide di sudore e la fanciulla appariva sfinita dalla stanchezza. Tuttavia continuarono ad andare e ad andare senza concedersi un minuto di riposo. Il sole era tramontato, tingendo il cielo di viola a occidente, La notte calò quasi improvvisa, avvolgendoli nel suo tenebroso mantello. A un tratto, in lontananza, si accese una luce stranamente azzurra che aumentava di intensità, come se stesse avvicinandosi. Jan distinse un grande globo che diffondeva fino a qualche distanza la sua luce spettrale. Davanti a loro apparvero le sagome oscure dei palazzi di una città. Man mano il globo diventava più grande ed essi sentivano sulle mani e sul volto il calore dei suoi raggi. Finalmente compresero che quell'enorme globo incandescente sostituiva per gli abitanti di quella città la luce e il calore del sole. Già si avvicinavano alle prime case della periferia, che improvvisamente esplosero nel buio due luci rosse come gli occhi infuocati di un drago. Un fischio lacerò l'aria e echeggiò lungamente nella notte. Jan lasciò la mano della ragazza, si fermò come paralizzato. Le luci rosse sembravano avventarsi su di loro, ma a pochi passi deviarono bruscamente, dileguando nel buio con la velocità del lampo, trascinandosi dietro un sordo fragore di ferraglie. Jan cercò allora la mano della ragazza, ma si accorse di essere solo. Si guardò intorno, nessuno. Corse di qua e di là chiamandola, ma nessuno rispose. Gli edifici di quella strana città sembravano guardarlo, silenziosi, inondati dalla luce azzurra del sole artificiale. Jan si rimise in cammino, non sentiva neppure il rumore dei propri passi. Dappertutto c'era una quantità di fiori di ogni specie e il loro profumo riempiva l'aria di effluvi inebrianti. Era disperato di aver smarrito la ragazza, ma era sicuro che doveva trovarsi in quella città. Forse lo stava cercando anche lei, vagabondando per strade ignote. La città sembrava disabitata. Neppure l'ombra di un essere vivente, nessuna finestra era illuminata. Eppure qualcuno, sì, qualcuno doveva abitarci, perché le strade erano linde e pulite, le aiuole ben curate e piene di fiori. Jan decise di bussare a una porta, ma si accorse che tutte le case erano divise dal marciapiede da una robusta cancellata. Camminando, a un certo punto si trovò in una vasta piazza. Doveva essere al centro della città, perché proprio al di sopra di essa era sospeso il grande globo incandescente. In mezzo alla piazza sorgeva una statua su un piedistallo di marmo bianco. Jan si avvicinò al monumento. La statua raffigurava una giovane donna ignuda e, guardandola, si ebbe l'impressione che si muovesse. La osservò più attentamente in volto e con suo stupore riconobbe la fanciulla con cui era fuggito. Tutto emozionato si domandò: ma che sia la reginetta della città? Il volto marmoreo della fanciulla si colorì di una tenera tinta rosata, le palpebre si sollevarono, le labbra accennarono un vago sorriso. Ma sì, sì! Dio cane, lei! Pazzo di gioia, si inerpicò sul piedistallo per salire fino a lei. Quando fu ai suoi piedi, le tese le braccia per aiutarla a scendere. La fanciulla oscillò, irrigidita nel marmo. Oscillò a lungo finché cadde in avanti nel vuoto e si abbatté con tutto il suo peso su di lui. Jan si svegliò di soprassalto, balzò in piedi nella più fitta oscurità col cuore in tumulto e la fronte madida di sudore, ancora sotto l'impressione di quel terribile incubo. Quando poté rendersi conto del luogo in cui si trovava, accese uno dei suoi ultimi fiammiferi rimasti e guardò l'ora. Erano quasi le 7, ma subito gli venne un dubbio: le 7 di sera o le 7 del mattino? Aveva completamente perduto la nozione del tempo. Da 3 giorni si trovava chiuso in quella cantina senza poter trovare una via d'uscita. Aveva la gola arsa dalla sete. Allineate lungo il muro c'erano delle bottiglie di vino, ma egli aveva paura di ubriacarsi e di essere sorpreso da qualcuno nel sonno in stato di incoscienza. Ma infine dovette cedere alla spossatezza. Si buttò su un mucchio di patate e di nuovo fu preso dal sonno. Era febbricitante. Forse era stata la febbre a dargli l'incubo che lo aveva portato in quella spettrale città. Questi erano Dead One Thunder con il brano Better Days. Ora si ritorna alla controinformazione con un testo lungo, ma lo spezzettiamo in due parti, intervallandolo con una lettura di Nessuno ci salva di Sergio Spiaseschi, un testo dei compagni del gruppo anarchico Sinfonia del Caos, tradotto in italiano, poi in greco non lo sappiamo com'è, noi l'abbiamo tradotto dall'inglese intanto, Symphony of Chaos. Il testo ha per titolo sul nuovo governo di salvezza nazionale. Nell'odierna realtà la crisi economica globale sta erodendo la stabilità politica ed economica degli stati, ridisegnando la mappa politica su cui nuove correlazioni sono state create nello sforzo di trovare delle politiche per indirizzare a gestire la crisi e restaurare la stabilità. In Grecia il cambiamento delle correlazioni politiche si è riflesso con l'elezione di Syriza al governo. Questa fluidità e mobilità politica corrisponde ad un livello generale in Europa dove i paesi più colpiti dalla crisi come il sud europeo e quindi l'Italia si trovano nel processo di cambiamento dei governi. Come risposta alla frustrazione generale delle masse, dato che hanno perso i loro privilegi a causa di un'aspra politica neoliberale, i socialdemocratici promettono di restaurare questi privilegi attraverso una politica interventista di supporto al popolo. Questo ovviamente è impossibile all'interno del contesto europeo, specialmente quando la liquidità finanziaria dell'economia di Stato dipende dai programmi di finanziamento, cui termini e condizioni sono determinati da terze istituzioni capitaliste. In questo caso ci sono solo due opzioni: la continuazione della politica precedente, con alcune apparenti misure di sollievo, per dare al governo la possibilità di mantenere il suo profitto più a lungo possibile, o una potenziale bancarotta. Syriza sta cercando di restaurare l'incrinato equilibrio tra il sistema politico e la maggioranza sociale, alleviando lo scontato sociale con la tattica della carota. Contemporaneamente ha scelto di collaborare e governare con il partito Greci Indipendenti, una mossa che mira sia ad assimilare e ad assorbire gli shock delle masse sociali della destra conservatrice che ad assicurarsi l'unità nazionale ad un livello materiale e immaginario. Identificativo della crescita improvvisa di Syriza e della sua natura e forma di bolla, di bolla che significa? Di bolla finanziaria. È la sua natura e la sua via. Era tra i movimenti riformisti, una minoranza di sinistra degli eurocomunisti, e come cresceva si è ricollocata aggiungendo trend di politica ecologista e di democrazia sociale centrista, includendo nello stesso tempo gli esecutivi e gli elettori dei rispettivi partiti. Il governo di sinistra si presenta come una medicina per i mali sociali, politici e economici, mantenendo un profitto giovanile, moderno ed ecologico. Proietta l'immaginario dello scudo della democrazia, del rispetto della legalità e del rafforzamento delle istituzioni e del Parlamento. Con il suo modello di gestione, il nuovo governo promette di seguire una politica che include la ricostituzione dello Stato sociale e la salvaguardia della sovranità nazionale, nonché degli interessi sociali. Sostiene il capitalismo sostenibile e innovativo con l'intervento statale e lo sviluppo verde e imprenditorialità, come dimostrato da continui sfruttamenti delle risorse naturali in termini alternativi. Camaleontismo e doppio gioco sono le caratteristiche forti della democrazia sociale. Questa è la prima parte del testo dei compagni greci di Symphony of Chaos. Ora ci ascoltiamo prima un brano, poi si ritorna alla lettura di Nessuno ci salva e poi dopo ci leggiamo la seconda parte conclusiva di questo testo, che io ritengo molto efficace, molto importante, anche perché nella seconda parte rivelerà delle cose molto importanti. Allora, il prossimo brano che ci andiamo ad ascoltare è degli Algorithm, il brano è Trojans. E dopo Nessuno ci salva, Sergio Spiasecki. Era messo in trappola da solo in quella cantina. Aveva saputo per caso che al numero 28 di via Podgora si trovava un circolo di ufficiali bolscevichi. I tedeschi vi avevano installato un ospedale da campo e, quando se n'erano andati, avevano abbandonato tutto, lasciando le cantine fornite di ogni ben di Dio. Una sera Jan si era recato a fare un sopralluogo nel cortile dello stabile e a esaminare l'accesso alla cantina, secondo le indicazioni che gli avevano fornito. Aveva aperto col grimaldello la pesante porta di ferro, richiudendola subito alle proprie spalle. Scendendo la scala che conduceva nel sotterraneo, aveva trovato un'altra porta che però era stata aperta. Nella cantina c'erano molte bottiglie di vino e parecchi sacchi di farina bianca. Dalle travi del soffitto pendevano prosciutti e pezzi di lardo affumicato. Jan aveva preso alcune bottiglie, un prosciutto e due pezzi di lardo, aveva chiuso di nuovo la cantina ed era tornato a casa. L'indomani aveva preparato due pacchi e li aveva mandati alle carceri, uno per Baran e l'altro per Gian Dente d'Oro. Alcuni giorni dopo aveva voluto ripetere l'impresa. Era un peccato non sfruttare la cantina finché c'era lì dentro ancora qualcosa di buono. Quel giorno, come al solito, aveva aperto la porta col grimaldello ed era sceso nella cantina, ma subito dopo aveva sentito sulla scala un rumore di passi. Qualcuno aveva aperto la porta con la chiave e stava scendendo le scale parlando con un'altra persona. Non aveva che pochi secondi per cercarsi un nascondiglio. Lungo il muro si trovavano uno sopra l'altra delle scanzie sulle quali erano state messe delle mele. Senza far rumore, scivolò nella scanzia più bassa che lo ricoprì completamente. E un attimo dopo la porta si aprì, lasciando passare due soldati e una donna che chiacchieravano tra loro in russo. Il locale si rischiarò la vacillante fiammella di una candela. I tre si misero a riempire i sacchi che avevano portati con sé, pieni di patate e carote. E la donna mise in un cesto un prosciutto e qualche bottiglia di vino. Dopo pochi minuti uscirono fuori dalla cantina. Jan, quando udì la porta rinchiudersi dietro di loro, sgusciò fuori dal suo nascondiglio e corse su per le scale e si rese subito conto di trovarsi in trappola. La porta era massiccia ed era impossibile aprirla dall'interno. Jan tentò di forzarla col piede di porco, ma dovette ben presto convincersi che non c'era nulla da fare. La porta era solidissima e i cardini di ferro erano profondamente infissi nella pietra viva. Sollevarli o spostarli anche di un solo millimetro era un'impresa disperata. Jan allora discese di nuovo nel sotterraneo e incominciò a esaminare attentamente la propria prigione. I muri erano massicci, non c'era più nulla da fare, vi era una finestrella fortemente strombata che lasciava filtrare un po' di luce dall'esterno, ma oltre ad essere troppo stretta per poterci passare, era protetta da sbarre di ferro e murate nella parete. Jan rifletté a lungo, guardandosi attorno per scoprire se vi fosse un punto debole nella trappola in cui vi si era cacciato. Avrebbe potuto scavare un passaggio sotterraneo, ma ci sarebbe voluto troppo tempo e intanto qualcuno sarebbe certamente venuto in cantina e si sarebbe accorto del suo lavoro. Dunque rinunziò a questa idea, che del resto era l'unica che gli era venuta, e decise di attendere che venisse qualcuno per cercare di sgusciar fuori inosservato. Si tolse le scarpe per non far rumore quando fosse venuto il momento buono e attese. Le ore passarono, la notte passò, il giorno seguente passò e anche un'altra notte. Nessuno si faceva vivo. La situazione incominciava a farsi preoccupante. La lampadina aveva cessato di funzionare e non c'era acqua. Aveva finito anche le sigarette e non gli restavano altro che 3 o 4 fiammiferi. Jan si sentiva sfinito dalla stanchezza. Da 48 ore lottava contro il sonno per non essere sorpreso da qualcuno mentre dormiva. Sapeva che avrebbe pagato a caro prezzo e forse con la stessa vita un attimo di debolezza. Passeggiava continuamente per tenersi sveglio, ma verso la sera del terzo giorno bastò che si sedesse un momento con l'intenzione di alzarsi subito perché piombasse istantaneamente in un sonno greve e smanioso in cui visse quella strana avventura con la fanciulla rapita. Si svegliò di soprassalto col cuore pieno di angoscia e le tempie che gli martellavano. Non aveva fatto ancora in tempo a ritrovare la coscienza del luogo in cui si trovava ed accendere un fiammifero per consultare l'ora quando udì dei rumori che provenivano dall'alto della scala dove qualcuno cercava di aprire la pesante porta di ferro. Ma la serratura mezza arrugginita resisteva e la chiave girava e rigirava mentre la porta rimbombava agli urtoni che le venivano dati dall'esterno. Jan afferrò con una mano le scarpe con l'altra il piede di porco e andò ad appostarsi dietro l'uscio in fondo alla scala. Dall'alto giungevano voci rose e bestemmie mentre il catenaccio andava su e giù strepitando. Infine la porta cedette e un momento dopo gli stessi soldati e la donna dell'altra volta entrarono in cantina. Uno dei due uomini, quello che reggeva il candeliere, si fermò voltandogli le spalle a meno di 2 passi da lui, mentre la donna e l'altro soldato staccavano dai ganci del soffitto alcuni pezzi di lardo. Senza fare il più piccolo fruscio, Jan sgusciò da dietro la porta e infilò la scala immersa nel buio. Era libero! Stava già uscendo dal cortile quando un'idea improvvisa lo fece tornare sui propri passi. Cercò a tastoni la porta di ferro. La chiave era stata lasciata nella toppa. Con rapida mossa chiuse la porta a doppia manata e si mise la chiave in tasca. Poi si infilò le scarpe e uscì di nuovo dal portone dirigendosi verso il ponte sulla Slivovic. Mentre lo attraversava gettò la chiave nel fiume. Il pensiero che quei 3 non sarebbero usciti facilmente dalla stessa trappola in cui lo avevano tenuto chiuso per 3 giorni gli restituì il buon umore e con passo allegro si avviò verso casa. Quello stesso giorno, sul marciapiede di fronte alla chiesa parrocchiale nel sobborgo della collinetta d'oro, si radunò una gran folla. Sulla scalinata del tempio giacevano 5 cadaveri. I loro vestiti erano tutti a brandelli e lasciavano intravedere attraverso gli stracci la carne nuda. Ai piedi portavano scarpe rotte e scalcagnate senza calze. Tutto ciò stava a indicare che quegli sciagurati da molto tempo erano privi dei più elementari mezzi di sussistenza. Ora erano stati privati anche della vita. I loro crani erano stati fracassati con qualche pesante corpo contundente, forse col calcio dei fucili. Uno dei trucidati aveva gli occhi conficcati in fondo alle orbite attraverso le quali sfuggiva, insieme al sangue coagulato, la materia cerebrale. Quei poveri resti umani giacevano in pose drammatiche sui gradini della chiesa. Non erano stati uccisi sul posto, ma trafugati chissà dove e portati nottetempo perché servissero da macabro scenario al primo atto del fosco dramma del terrore. Oh. Questi erano Biotech con il brano Human. Ora si ritorna alla controinformazione con la seconda parte del testo dei compagni di Chaos Symphony della Grecia. Allora, non vale nulla la ristrutturazione culturale e razionale del potere politico e l'evidente intreccio con il complesso tecnoscientifico. Questo diventa evidente dal fatto che gli scienziati accademici occupano i posti al governo al fine di servire specifiche strategie politiche e obiettivi del governo di sinistra nei settori di economia, sicurezza, sviluppo, educazione e giustizia. Un famoso esempio è il collocamento del professore di legge Paraskevopoulos e vice ministro della giustizia, che vuole umanizzare le prigioni con la riorganizzazione del sistema carcerario e la sostituzione delle carceri di tipo C con le sezioni di alta sicurezza. Chiudi le carceri e fai prima. Un famoso esempio è il collocamento del professore di legge, questo l'abbiamo letto, ero tornato al rigo di sopra, altrettanto indicativa della congiunzione tra la scienza e i politici è il collocamento del professore criminologo Yannis Panosis e vice ministro della protezione cittadina, che ha messo la repressione e lo scioglimento dei gruppi sovversivi anarchici e delle formazioni di guerriglia urbana nei primi posti del suo programma in nome della lotta radicale al terrorismo. Inoltre, i suoi annunci collegati alle ricerche accademiche mettono di nuovo sul tavolo la prospettiva della ridefinizione dei rapporti tra la polizia e i cittadini tramite la politica partecipativa contro la criminalità, poliziotto di quartiere, consigli di prevenzione della criminalità, importazione degli immigrati nelle forze di sicurezza, eccetera eccetera. Questo modello di governo si completa ponendo dei soggetti politici appropriati ai posti corrispondenti al fine di soddisfare le diverse dinamiche sociali che sono state espresse dal verdetto popolare nelle precedenti elezioni, come il collocamento di Panos Kamenos dell'estrema destra a ministro della difesa nazionale e dell'ecologista Yannis Tsironis a vice ministro dell'ambiente. Il nuovo governo di sinistra in periodo breve è riuscito ad ottenere il sostegno di una grande parte delle masse ed ha attivato i riflessi della piccola borghesia dalla sua parte, che esce sulle strade sostenendo lo Stato con la speranza di ottenere una parte delle briciole. È questa patetica indignata marmaglia che solo qualche anno fa riempiva le piazze lagnandosi delle proprie tasche vuote. Allora molti anarchici videro in essa il soggetto rivoluzionario, mentre adesso la vedono salutare i nuovi salvatori. Non sorprende allora che alcuni anarchici hanno preso parte a questi sostegni di adunate governative, se prendiamo in considerazione che molti di loro hanno votato per il nuovo governo. Syriza è riuscita ad assimilare una grande parte dei movimenti e mantiene dei canali di comunicazione con loro. Questa tattica porta un doppio significato: da una parte ha il sostegno anche dei più ambienti politici e dall'altra, e più importante, può contare sul fatto che queste parti assimilate dagli ambienti radicali possono operare dolcemente contro l'esplosione delle pratiche insurrezionali. Inoltre, il modo più efficace di reprimere le azioni violente è la loro prolessi e la prevenzione. In contrasto con tutto questo stanno quegli anarchici che lottano con coraggio e dignità contro il dominio, indifferenti al personale politico nell'apparato statale, ai differenti modi di amministrazione. Non poniamo nessuna speranza nella rinascita della patria e nella chiarezza della democrazia. Siamo su posizioni di battaglia con loro. Non ci interessa la restaurazione dell'umanitarismo e dello Stato sociale, ma la loro dissoluzione. Non ci importa se il capitalismo ha uno sviluppo fattibile ed un profilo verde, o se il meccanismo di Stato è sotto un'amministrazione scientifica. Noi combattiamo per la disintegrazione dell'economia e la demolizione della mostruosa civiltà. Non cerchiamo i miglioramenti delle condizioni di detenzione, ma la demolizione di ogni tipo di carcere. Tuttavia, adeguiamo la nostra, le nostre tattiche di lotta alle circostanze e prendiamo vantaggio dalle nuove prospettive offerte. Non cerchiamo uno stato migliore, una migliore economia, una migliore civiltà, una migliore società, ma ci stiamo invece dirigendo verso la loro distruzione totale. Nessuna pace con il governo di sinistra, nessuna tolleranza per i meccanismi di supporto. Gruppo anarchico, sinfonia del caos. E questo era. Con questo abbiamo chiuso il testo dei compagni greci di Symphony of Chaos, che ci hanno aperto, ci hanno fatto un quadro un po' generale, un'analisi molto, molto importante, e di cui secondo me non, qualche dubbio l'avevo avuto, però sicuramente quando parlano di anarchici che hanno votato il governo Siriza, sicuramente si riferiscono a quella parte di anarchici che, come in Italia, possono essere della Federazione Anarchica Italiana. Là si chiamano anarchici anti-autoritari, con cui ci ho avuto a che fare e lasciamo perdere. Ora ci ascoltiamo un altro brano, loro sono Christ Analog, il brano è Fracture, e poi dopo si torna qua con altre due mini brevi. No, lettura, un'altra, solo un'altra e poi finiamo. Un'altra breve lettura di Sergio Spiasecchi con Nessuno ci salva, e poi ci si, ci risente venerdì prossimo. Hide my son. Ceca aveva voluto mostrare alla popolazione di Minsk le sue zanne sanguinose. Si era iniziato in grande stile lo sterminio di quelli che i bolscevichi definivano con sprezzo i borghesi, cioè dei cittadini che possedevano qualche cosa a qualsiasi ceto o categoria appartenessero. Venivano trucidati innocenti o colpevoli, non solo senza distinzioni di età o di sesso, ma, e questo era ciò che più sgomentava la popolazione, senza alcun apparente motivo o criterio di discriminazione. Completamente alla cieca. A chi toccava, toccava. Ma uno scopo c'era, ed era di terrorizzare la popolazione, di fiaccarne ogni forza di volontà e ogni velleità di reagire, paralizzandola con l'orrore macabro della tortura e della morte. Gli arresti venivano eseguiti non solo senza mandato di cattura né alcuna parvenza di legalità, ma senza neppure un'accusa precisa. Non ci si preoccupava più di tenere celate al pubblico le fucilazioni che si susseguivano ininterrottamente nei sotterranei stessi dell'edificio dove erano gli uffici centrali della CECA, o nelle cantine delle case vicine quando le sentenze da eseguire erano troppo numerose. La gente aveva la sensazione che un mostro spaventoso e spaventato allo stesso tempo facesse scempio di quanti venivano a trovarsi nel suo raggio d'azione, che fossero belve e forse non uomini a compiere quegli eccidi di massa. La città si trovava in preda al terrore. Di sera la gente non usciva più di casa e anche di giorno percorreva in fretta le strade semideserte guardandosi attorno con sospetto. Se ci si fermava a parlare lo si faceva con voce soffocata e con l'angoscia negli occhi. Subito dopo il coprifuoco per le scale incominciava a girare il famigerato autobus della morte, il Corvo Nero. Con esso venivano prelevati e portati fuori città i condannati a morte per essere fucilati in qualche cava di sabbia o nei pressi di una fornace. Da qualche giorno sull'ultima pagina dei giornali apparivano elenchi, lunghi intere colonne, elenchi di persone liquidati dalla cieca, ma erano elenchi incompleti. Altrimenti non sarebbero bastati i giornali a pubblicarli. Il luogo preferito delle esecuzioni capitali era la Komarovka. Non era mica comodo trasportare i cadaveri degli uccisi dalle cantine a un luogo di sepoltura distante dalla città. Perciò le autorità del regime più umanitario della terra, del partito che al tempo degli zar lottava per l'abolizione della pena di morte considerandola un'onta per la civiltà del XX secolo, sì, quelle stesse autorità scelsero un terreno adatto alla loro furia omicida alla periferia della città, lungo la carrozzabile di Borisov. Là si era insediata la morte e là sparivano a migliaia i nemici della rivoluzione. La CECA, ossia la Commissione Straordinaria per la Repressione della Controrivoluzione, del Controspionaggio, del Banditismo e della Speculazione, era la creatura di un comunista polacco, Felix Dziergmiński, e in quei giorni infuriava in una sanguinosa sarabanda di arresti, di condanne e di esecuzioni. Ma il solo terrore non bastava. Gli organizzatori di massacri sapevano che organizzare la fame sarebbe stata un'idea altrettanto e forse, sì, forse più felice, se la paura della morte poteva rendere un uomo vile, ma dagli all'occorrenza la forza della disperazione, la fame. La fame l'avrebbe privato di ogni resistenza fisica e morale, consegnandolo inerme nelle grinfie dei commissari. La fame avrebbe legato gli operai alle fabbriche, schiavi della misera razione di pane che veniva loro assegnata. I bolscevichi avevano lanciato un detto che rispecchiava questo punto di vista: il cane sazio se ne infischia del suo padrone, tutt'al più accetta di giocare con lui. Così, in poco tempo, la città che, come centro della lotta che divampava in tutta l'Europa orientale, aveva scorte colossali di viveri e nei tempi normali era famosa per il basso costo della vita, si trovò ridotta agli estremi. Vennero istituite tessere annonarie esclusivamente per lavoratori e organizzate mense solo per operai, nelle quali si distribuivano giornalmente 150 grammi di pane di crusca, una brodaia di incerta composizione, due patate e un minuscolo pezzo di aringa marinata. La fame stringeva la gola a Minsk e minacciava di soffocarla, ma per le strade non si incontravano solo individui cenciosi e sparuti, vi si pavoneggiavano anche, pieni di boria, i padroni, sazi, ben pasciuti e soddisfatti di sé. A loro erano riservati i ristoranti, i lupanari, le bische e i ritrovi notturni. La maggior parte di essa, dei padroni, era giunta dalla Russia centrale e aveva subito occupato i posti migliori. Brutti tempi si preparavano per la mala. Ai dritti si dava una caccia spietata, eppure la città non era mai stata travolta da una simile ondata di delitti. Furti, rapine, truffe, malversazioni erano all'ordine del giorno. Bordello veniva qualificata a Minsk dalle autorità d'occupazione, eppure erano proprio loro, più che delinquenti di professione, a creare il caos per poter meglio pescare nel torbido. Lo stesso bordello si era insediato in tutta la Russia e stava ora traboccando oltre le sue frontiere. I negozi erano vuoti, ma al mercato nero si poteva trovare qualsiasi cosa. Sborsando una grossa mancia si poteva persino ottenere la scarcerazione di un condannato a morte. Bastava imbroccare la strada giusta per arrivare fino al funzionario responsabile. Il regime di terrore che incombeva sulla città rese più prudenti i ladri di professione, quelli seri. Non che fossero spaventati, perché anzi continuavano imperterriti i loro affari, sfruttando la situazione caotica del momento. Ma mentre prima non facevano mai uso della rivoltella, ora andavano sempre armati, decisi a non cedere se non morti nelle mani degli sbirri della cieca. Se si fosse fatta una statistica dei furti perpetrati nella sola zona di Minsk nell'aprile 1918, quando la città era ancora in mano ai tedeschi, e nell'aprile 1919, quando era già passata sotto l'occupazione russa bolscevica, il rapporto sarebbe stato di 1 a 100, perché mentre prima erano solo un gruppo di dritti di professione che teneva il campo, ora sotto il regime bolscevico rubavano tutti, non esclusi gli ufficiali, soldati, funzionari civili e gli stessi agenti della polizia segreta. I ladri di classe, sia di classe che della classe, avevano abbandonato i merli ormai ridotti in miseria, rivolgendo la loro attività contro i nuovi padroni, contro le cooperative, i depositi, i magazzini militari, le stazioni ferroviarie. Solo così potevano contare su un grosso bottino, e nello stesso tempo prendevano in giro i compagni comunisti con le strofe sempre aggiornate della piccola mela. Va in galera il commissario e si porta dietro un sacco con dentro le brillanti vodka e tabacco. e si beffavano anche dell'internazionale, trasformandone e parodiandone in tutti i modi le parole del testo. Sollevati o proletariato, maledetto popolo della terra, unitevi gonzi di tutto il mondo nella pentola bolscevica. Anche questo era un modo di lottare, ma la lotta era impari e per di più disperata. I cittadini di Minsk si rintanavano nei nascondigli, cercando di rannicchiarsi su se stessi e di dar nell'occhio il meno possibile alle autorità per aver salva la vita. Ladri, quelli veri, si preparavano con estrema cura le loro imprese e non vi andavano mai da soli. Portavano sempre le armi e spesso le usavano, sicuri che una volta acciuffati sarebbero stati giudicati sempre per direttissima. Così è così. La rivoluzione fece di una piccola città di provincia, a cui la guerra aveva conferito un'importanza particolare, un vero e proprio ammazzatoio di uomini. Ma i suoi schernitori, quando volevano alludere ad essa, usavano sempre la parola bordello. Minsk un bordello, ma la rivoluzione, sì, la rivoluzione non era mica quella, non era più quella. Radio Azione. Radioazione.org. Radioazione. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. Radioazione. Radioazione.org. Radioazione. Controinformazione, letture, provocazioni,